finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo, è solo chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo. Siete sempre sintonizzati sull'87.9 MHz di frequenza di Radio Onda Rossa. E benvenute e benvenuti a una nuova puntata di 25 O'Clock. Studio questa notte abbastanza affollato. Perché ci sono venuti a trovare un po' di amici. Li vogliamo presentare questi amici. E quindi buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ciao a tutti. Metropolitan Ratto Suite, Piero, Fabio e Massimo. Al microfono. Metropolitan Ratto Suite, Piero, Fabio e Massimo. Salve. Onorati di stare in questa. Da Tivoli? Sì, da Tivoli. E quindi ci andremo a fare presto una bella chiacchierata. Iniziamo però con il ricordare i contatti della radio. E partiamo dal nostro sito www.ondarossa.info, sito attraverso il quale potete rimanere aggiornati. Con le notizie, le corrispondenze e i podcast delle altre trasmissioni. Radio Onda Rossa Libera dal 1977. Radio senza padrini e senza padroni. E radio che non campa d'aria. Quindi sempre attraverso il sito, cliccando su Sostieni, potete sostenere questa radio. Oppure potete sottoscrivere con lo storico conto corrente postale 6180 4001, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001. Via dei Volsci 56 00 185, Roma San Lollo. Dai, eh. Il numero di telefono 0649 1750. Ripetiamo 0649 1750. Le email della trasmissione 25 o'clock chiocciola ondarossa.info oppure fantasma@ondarossa.info. E quindi prima della trasmissione si stava un po' chiacchierando con il Metropolitan Rat Suite. E noi rimarchiamo il nostro spirito ed iniziamo la trasmissione con i Fingernails. Con la loro Heavy Metal Forces. We'll be right back. e sulle note dei Beastie Boys. Andiamo a ricordare. Li hanno scelti loro, li ha scelti Massimo per l'esattezza. I gruppi preferiti. E quindi i Metropolitan Ratto Suite ci hanno portato una loro scaletta. Insomma, ricordiamo che ci abbiamo qui Metropolitan Ratto Suite. Ciao a tutti, io sono Piero e suono la batteria nei Metropolitan. E sono il componente più giovane e anche più bello, e lo potete vedere tutti alla radio. Ciao a tutti, io sono Fabio, sono il chitarrista dei Metropolitan e sono quello più basso, però. E anche questo si vede alla radio. Io Massimo, basso e voce, e sono uno dei meglio dei Metropolitan. Che sono Vabbè, la modestia. Poi tanto non ci vedono, quindi possiamo dire tutto. Io direi di sì. Però vi sentono, attenzione. Niente, vogliamo insomma, dopo questa presentazione, presentarvi anche musicalmente. Ascoltiamo la prima traccia del. Ce la vuoi presentare? Sì, si chiama Brutto, Sporco e Cattivo. Metropolitan Ratto Suite. E ripercorriamo un po' le origini del gruppo. Il gruppo è, diciamo, è in attività da diverso tempo. Questa formazione, quella attuale, cioè io, Fabio, Massimo e Piero, è da circa un paio d'anni che attivo, e strimpelliamo insieme, ci divertiamo e sembra essere quella giusta, che finora ci ha dato più soddisfazione, onestamente. Nulla togliere a tutto il resto, però. Quindi da un paio d'anni con questa formazione? Sì, da un paio d'anni con questa. Invece il gruppo nasce anni prima? Non... Sì, dall'inizio abbiamo l'attività 3 album, quindi da già all'inizio dei primi anni 2000 abbiamo sperimentato diverse cose, sempre nel rock ovviamente. Adesso abbiamo trovato la nostra forma giusta, matura. Con formazioni diverse. Ma prima hanno fatto tutti, capito, facevano il più bello, il più bravo, il più forte, eccetera, eccetera. Loro in realtà nell'area tiburtina a Tivoli sono una delle band, diciamo, che suonano da più tempo, conosciuti appunto per lo più in quell'ambito, poi anche al di fuori, insomma, di quello hanno una lunga storia. E mo sono contenti, sono felici, come ogni band, parlavamo prima, quando cambia la formazione, se potrebbe dire altrimenti. Certo. Beh, io li ricordo già da parecchio tempo nella zona. Perché te li andavi a vedere o a sentire? Sì, li ho visti dal vivo, e avevo 17 anni, 18 anni e suonavo tutt'altro genere. E poi... Lo vuoi dire? Sì, suonavo heavy metal, tuttora lo suono orgogliosamente. Eh? Bravo ragazzo. E sentivo comunque anche fuori dalle sale prove questo gruppo, mi fermavo spesso ad ascoltarlo, perché comunque uscivano fuori delle sonorità molto particolari che, rispetto insomma ai gruppi presenti nella zona, risultava più originale. E non mi sarei mai aspettato poi nell'arco di 8-10 anni dopo di poterci suonare. Ma come ti hanno ingaggiato? Perché poi adesso questa così un giorno per strada, senti, com'è andata? C'è stato un concorso, una selezione. Sì, l'altro... c'è stata una selezione, io sono stato il migliore di 800 batteristi provati. 806 per l'esattezza. Vabbè, in realtà ecco, Tivoli è piccola, ci conosciamo tutti e... Più bravo, a piazzetta funziona anche in questa. Però noi non sapevamo che tu stavi fuori la sala prove, questa l'ha detta adesso. Ah, guardone. Va bene, sono un po' nostalgico. No, è stata una bella scelta, nel senso che ci ha completato come gruppo proprio a livello musicale, quindi andiamo avanti così, spero, senza cambiare altre formazioni. Magari no, no, che no. Screcia sotto qualcosa, se potrebbe pure le tastiere. No. Io cambierei il chitarrista e il bassista, però va bene, ci teniamo questi. Ci ascoltiamo un altro pezzo? Sì. Perché no? Anche sì. Che mettiamo? Decidete voi, mica. Ma uno di quelli nostri o? Sì. Bipede. Raccontiamo. Di che parla? Sì, allora, Bipede. Bipede dopo. Nasce dopo? Prima dopo? Come dopo? Dopo, dai, va. Dai, Bipede. Down there, mentre il fantasma si incartava. That's life. Tutto voluto, eh? 25 o'clock, 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, banda romana e laziale 06491750, Metropolitan Ratto Suite negli studi di Onda Rossa. C'era prima un'illazione innanzitutto, però la mettiamo dopo, quella che c'è, cioè, una domanda, voi siete dei raccomandati. Vabbè, quella dopo. Si dice che siete. Però no, invece no, quello che volevo parlare prima di andare a, diciamo, alle note dolenti, invece parlare del suono dei Metropolitan Ratto Suite, anche in virtù del fatto pure della scaletta estremamente eterogenea che ci avete portato come base della nostra chiacchierata, insomma, come a dire, comunque l'orizzonte è ampissimo, questo esce fuori. Però non lo so, ve lo chiedo a voi, questa è solo un'impressione mia, probabilmente sbagliata. No, è proprio così, siamo tre persone e abbiamo tre gusti completamente diversi musicali, quindi. Quindi di musica ne ascoltiamo tante e di tutti i generi. A me per esempio piace il punk, loro sono un po' più tecnici, vanno su Buckethead, di Primus, così. Piero pure c'ha quell'interesse là. Beh, forse questa è appunto una delle fortune del gruppo, sì. È proprio questo, è che la natura eterogenea del gruppo permette di arricchire il pezzo e permette di, appunto, di sfruttare varie influenze. Quindi può uscire un pezzo rockabilly grazie a Massimo, un po' più metal grazie a me, e un po' più tutto grazie a Fabio, e un po' più niente grazie a me. Fortunatamente riusciamo a conciliare sempre le nostre idee, cioè se il punto d'accordo si trova sempre e comunque, questa è un vantaggio da sfruttare, perché finché, insomma, infatti, nonostante suoniamo solamente da un paio d'anni, siamo riusciti a tirare su all'incirca 10-12 pezzi, un paio ancora da chiudere, e il songwriting risulta molto molto facile. Solitamente il primo che ha un'idea la presenta e nell'arco di un quarto d'ora di prove o io o Fabio o chi che sia, insomma, riesce a tirare fuori un arricchimento di quell'idea, e da lì nasce quasi automaticamente un pezzo senza starci a riflettere molto. Insomma, un'empatia naturale, una sì, sintonia tra le varie differenze. Quasi un gioco, veramente. È un gioco. Una cosa, prima mi dicevate, insomma, così, di altre vostre esperienze più o meno con etichette che vi hanno appunto ingaggiato per suonare, poi appunto questa evoluzione successiva con Roberto, no, che è il batterista vecchio, sì, che è andato via, e quindi la nuova formazione, e che è quella attuale che ci avete voi adesso, che state qua in studio. E quindi dicevamo, adesso mi illustravate appunto questa modalità nuova di comporre i pezzi, fino al punto in cui dice sì, vabbè, partiamo da tre zone, da tre mondi differenti, o comunque tre influenze, tre piaceri di ascolto o piaceri di suonare, poi di conseguenza differenti, ci siamo. Insomma, però poi un suono originale non nasce semplicemente, credo, perché poi sono tantissime le band che ci hanno appunto, anzi, riferimenti. Proprio i riferimenti, ma io sono assolutamente convinto che i generi nascono dal fatto che, ma è sperimentato proprio, cioè ci stanno una casistica che potrebbe essere illustrare lungamente, appunto, di band. Qui c'è uno che viene dal punk, uno dal metal, nasce il thrash, insomma, questa cosa qui è diciamo abbastanza appurata. E ora invece qual è la qualità di più? Forse proprio il divertirsi quando si fanno le cose, insomma, dov'è, qual è lo scatto che invece poi ti permette di dire sì, ok, ho fatto un gran pezzo, mi piace, pubblichiamolo, suoniamolo, eccetera. Beh, la differenza sostanziale la fa innanzitutto, sì, il divertimento è alla base del successo, se vogliamo, cioè successo in termini di songwriting, di riuscita, ecco, non, non in altri campi purtroppo. Però che nessuno di noi si sente limitato, ogni idea è estremamente personale, può essere nata da uno spunto su un altro gruppo, ma non c'è mai nessun altro componente della band che dice no, questo mi sembra un po' troppo così o un po' troppo colà. Si cerca sempre il modo, insomma, di amalgamare. Sì, sì. E poi sì, l'improvvisazione, tanta, cioè improvvisando, proprio giocando sull'improvvisazione, esce fuori il riff che, oh, fermi tutti, ok, ci blocchiamo, iniziamo a fare, magari si parte quella là. Invece sui suoni, specialmente per esempio già la chitarra, Fabio ci fa un lavoro proprio grosso, fa proprio un gran lavoro di ricerca, cioè proprio set effettistica, le cose, noi finiamo le prove, lui sta 8 ore là a sentirsi, cioè c'è un po' un automa pure a volte, perché io sono il basso, quindi il suono del basso gli dicono sempre vabbè, metti, lo porti a fare amplificatore, però sulla chitarra, su queste cose c'è una, abbastanza, c'è una ricerca, diciamo che avviene soprattutto, ecco, appunto, giocando. Uno arriva, monta, 10 minuti di improvvisazione, capace che già ci sono 3 idee valide da quei 10 minuti di improvvisazione. Di quei tre... più ci metti il tuo delirio personale. Bravo. Insomma, di quelle... ci metti l'impegno. Sì, no, diciamo che di quelle 3 idee una potrebbe, di solito diventa sempre un pezzo o parte di un pezzo. Poi sì, poi vabbè, come dicono loro, io quando loro fanno sigaretta, pausa, io non fumo e quindi mi sfogo sulla chitarra, perché durante il giorno ho poco tempo, quindi divento un po' autistico in quel senso lato. Tipo antistress. Sì, ecco perché devo sfruttare tipo le cose che ho a disposizione. Che devi stringere di gomma, no? Bravo. La chitarra. Si alza alle 6 di mattina, vanno a lavorare e quindi il tempo è quello. Il tempo è tiranno. E vabbè, se niente, no, c'è un'altra cosa. E quello che vi piace a voi, cioè quello per cui appunto lui dice eccolo, ferma tutto, qui si fa il pezzo, abbiamo trovato, certo, il riff, abbiamo trovato il ritmo giusto, eccetera eccetera, che vi piace la paura per cui dice ok, abbiamo spaccato, dai, si fa. Sì. Poi normalmente sta cosa qui è quella che piace di più al pubblico, a chi vi ascolta, oppure invece viceversa, magari quella cosa vi piace un sacco da paura da voi, poi va dal concerto. Beh, un po', sì, sì, no, ci sono pezzi che sicuramente senti proprio. Sì, sì, ce ne accorgiamo noi che funzionano e riscuotono un determinato successo. Altri pezzi effettivamente, o perlomeno alcune frammenti di un pezzo, potrebbero risultare magari troppo personali e magari non così incisivi dal vivo. Quindi insomma, durante un concerto, come ci sono ascoltatori molto attenti al gruppo ed altri che necessitano di quel momento di pausa, a volte siamo un po' troppo serrati e questo compromette un po' il live. Insomma, no, cerchiamo di essere obiettivi, sì, sì. No, perché dobbiamo dire che effettivamente ci sono pezzi che tra virgolette hanno avuto il più successo era tra virgolette di quello che ci aspettavamo, e invece altri hanno detto forse dal vivo è ancora un po' presto, oppure non era il concerto giusto. Però noi non è che accantoniamo queste cose, perché ovviamente un po' di soddisfazione personale, se piace a noi in un certo senso lo dobbiamo pure manifestare, un po' di capocciatura, insomma, comunque insiste sulle cose. Sì, un po' sì, senza, cioè, ovviamente noi ci piace anche accontentare la gente, chi ci segue e tutto il resto. Vabbè, comunque alla fine la riuscita di un concerto è anche come risponde il pubblico, e quindi anzi, se vogliamo facciamo anche uno studio particolare sulle scalette, ovviamente, appunto, sì, per a questo, secondo, del locale. Comunque c'avete una vostra identità del vostro suono, c'è, cioè abbastanza. Beh, questo c'è stato detto e personalmente ritengo che sia il complimento migliore, cioè essere personali. Credo che adesso come adesso sia essere onesti, insomma. Sì, sì, sì, comunque c'è onestà. Non, sì, no, no, prima di tutto autocritica. Il pezzo paraculo ancora non c'è uscito. Ci vogliamo ascoltare qualcos'altro da quel. Oh. Il prossimo pezzo paraculo, dai. Il prossimo pezzo è un po' paraculo, dai. Sentire che è best. Best dedicato a George. Best. Con Roberto alla batteria. Qua c'è Roberto alla batteria, sì. Che lo salutiamo. Ciao Roberto. 23:15, questa è Radio Onda Rossa 87.9. Questa è 25 O'Clock con i Metropolitan Ratto Suite. Dall'Irlanda vien Mr. Best, lo stadio fa festa alla destra, go go gol Benfica. Eccoci tornati sognanti. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far. Professore, vogliamo. Professore. Sì. Raccomandazione, voglio parlare. No, vabbè, raccomandazione. Perché a un certo punto è venuto Davide di Stato Brado, che salutiamo. Brado, ex di DPM, sì. Dicevano, c'ho certi amici mia, così, con dei compagni, dei tivoli, mi si è presentato. È venuto abbastanza losco, insomma. Sì. Sì, uno spacciatore. Sì, sì, sì. Vabbè, comunque. Questo è il dischetto, no? Perché così è cosa. E adesso, fatto sta che dopo ho scoperto che invece Massimo, io diciamo l'avevo, lo conoscevo, ci conoscevamo, ma non ci ricordavamo assolutamente perché ci eravamo visti tipo 25 anni fa. Non abbiamo ascoltato la raccomandazione. Esatto, c'era un'altra raccomandazione molto più influente. Era proprio diretta. Abbiamo conoscenza col fratello di Max da sempre praticamente, e non la sapevamo che cosa. Tra l'altro appunto sta cosa l'abbiamo scoperta successivamente alla la raccomandazione dei Davide, sì, che tra l'altro dovranno venire, è stato bravo fatto, li aspettiamo da circa 3 anni e mezzo, c'hanno sempre qualche impegnetto, un po' latenti, sì, anche perché poi anche il livello alcolico diciamo di essere è sempre abbastanza alto, quindi no, cioè non, anche se invitati non riescono poi ad arrivare in radio. Sì, sì, sì. Messaggio occulto. Sono 3 anni e mezzo che sei Davide cercato. È sempre contento, diciamo. Vabbè, insomma, comunque eccoci qua, insomma, Metropolitan Ratto Suite. Da raccomandati, Metropolitan Ratto Suite. Grazie. Con Jan Vincent. Sì, Over the Rainbow, una versione molto stata una prima scelta tua? Sì, prima di andare a letto, Summer Over the Rainbow e Camomilla per non dire le 3P che non le diremo dopo. Vabbè, più tardi. Più tardi. No, sì, accantoniamo un attimo Metropolitan Ratto Suite per dirvi che appunto in seguito ai fatti della Montagnola, cioè lo sgombero che c'è stato oggi, una grossa occupazione della Montagnola, circa 200 nuclei familiari sono stati messi con il tetto, con il tetto, le stelle per tetto, cacciati via appunto da quella che era la loro sistemazione che avevano trovato appunto occupando un grosso stabile abbandonato da diversi anni proprio alla Montagnola. Allora domani era già previsto un corteo a Magliana alle 17.30, quindi l'appuntamento a tutti i compagni e compagni è quello di andare a Magliana alle 17.30, ricordando che alle 18 in via Benedetto Croce, che è proprio lì vicino allo stabile dove c'è la sede del municipio, la Assemblea dei Movimenti per il diritto all'abitare, che si incontreranno con le controparti, probabilmente il sindaco Marino stesso, adesso non sappiamo, comunque una delegazione del comune, alle 18 quindi in via Benedetto Croce, Assemblea dei Movimenti, sulla situazione appunto degli sgomberi a Roma e delle occupazioni e soprattutto sulla soluzione del problema abitativo per migliaia di famiglie costrette appunto a soluzioni di precarietà abitativa. The road is back to you. I'm calling my Georgia. No, no, no peace I find. You see, it's just as an old sweet song keeps Georgia on my mind. For the county, and I drive the main road, searching in the sun for another overload. Buy it, use it, break it, fix it, trash it. Allora, ci siamo. 25 o'clock, onda rossa. Dopo questa piccola pausa meditativa, diciamo, oppure non lo diciamo, andiamo alla domanda più difficile per qualsiasi band che si presenta qui, cioè perché lo fate, cioè chi lo fa fare, perché uno decide di suonare eccetera, di suonare come lo fate voi, e poi andiamo pure a filosofeggiare un po' pure sull'atteggiamento poi che avete, appunto, creare un tipo di suono, suonarlo, metterci sopra dei testi, vorrà dire pure che magari senza pretese, però volete comunicare qualcosa. Sì, insomma, un po' la domanda è questa qua. Lo facciamo perché ci piace, poi siamo masochisti. ci piace proprio suonare, quella è la prima cosa. Noi potremmo suonare tranquillamente sempre in sala prove, tranquillamente, e mettere su pezzi, registrarli con telefonino e risentirceli. I testi spesso e volentieri, cioè non abbiamo mai voluto catetizzare nessuno quei nostri testi, e spesso e volentieri nascono da personaggi che ci hanno colpito magari dal cinema. Per esempio, il primo pezzo, che era Brutto, Sporco e Cattivo, è un film di Ettore Scola, Brutti, Sporchi e Cattivi. Giacinto Mazzatella, interpretato da Nino Manfredi, è un personaggio su cui ci devi scrivere qualcosa, perché è talmente di spessore. Per fare per esempio quel testo ho visto 15 volte il film, e poi riprendendo pure le frasi che dicono loro l'abbiamo messe sopra come citazioni. E poi lì automaticamente comunque esce fuori anche la descrizione di un personaggio. È un personaggio arrabbiato, affamato, e niente, quindi dalla semplice descrizione si può anche estrapolare in un certo senso un quadro umano, dalla scelta proprio dei personaggi pure. Non so, ma cioè, non è che andava a fare un pezzo su Maria De Filippi? No, assolutamente non si sa, in realtà. Ma è ammazzato sul nascere, un mio prossimo progetto. No, però diciamo con il senso dell'ironia, con il piacere del sarcasmo, del paradosso, si può fare un pezzo su tutti. In realtà, sì, mo, al di là della battuta effettivamente, sua, effettivamente, poi ci ha fatto pensare il prossimo sarà su una cosa del anche genere. Perché appunto qui abbiamo citato Brutti, Sporchi e Cattivi, invece su Bipede, che forse ne dovevamo parlare, non abbiamo parlato. In realtà, che un altro paradosso, un'altra situazione, appunto, di queste incredibili. Pure quello era inevitabile, non fare un pezzo su personaggi del genere. Sì, un supereroe, personalmente, per noi. Durato 6 minuti, però è stato un supereroe. È una storia vera, no, non possiamo dire il nome e non possiamo dire quando è accaduto, ma semplicemente perché non ce lo ricordiamo. comunque vi possiamo assicurare che è una storia vera, e parla di un ragazzo che si è lanciato senza paracadute, è andato a fare paracadutismo con gli amici, hanno affittato il loro aeroplano, qui 5, 6, 7, 10 salti, e l'ottavo ha dimenticato il piccolo dettaglio, ossia chiamato il paracadute. Distrattino. Pare che sia andato anche in bicicletta, senza bicicletta, ma naturalmente prima dell'incidente. A Tivoli si dice scordarello. La saggezza popolare le volte aiuta su queste vicende. E da lì abbiamo preso spunto anche per un video particolare, dove non è nient'altro comunque che un montaggio di filmati che si trovano in rete, insomma. Sì, che si trova in rete, basta cercare Metropolitan Ratto Suite. No, dico anche i filmati, dico, si trovano, sì, in sì. montaggio sì. di roba. Sì, esperimenti di inizio secolo proprio. Mm-hmm. E sono, appunto, riguardano, come dice Fabio, degli esperimenti sull'aerodinamica, sull'avionica del Novecento e tutto quello che ne consegue, quindi incidenti. Sembrano un po' i film di Charlie Chaplin, cose del genere. Comunque alla fine, ecco, siamo stati ispirati anche al fatto che ultimamente sta andando estremamente di moda l'estremo su qualsiasi sport. I primi potevano essere i surfisti, gli skaters, adesso vedi gente superare comunque qualsiasi limite fino comunque alla stupidità, insomma. Esatto, fino a farsi del male. E quindi Bibede rappresenta un po' anche questo, e quel tizio è il nostro eroe, a rischiare di essere goffi, insomma. Esattamente. Sì. Però cool per gli ultimi 5 minuti di vita. Vabbè, io penso che abbiamo ascoltato 4 su 5, no? Se non sbaglio. E andiamo un po' alla cosa che io ritengo il pezzo forte, insomma, dei Metropolitan, la cosa che a me piace di più personalmente. Non so se a loro, magari sarà una di quelle cose che loro hanno detto, ma questa la mettiamo, boh, non lo so. Ci tiene sul filo del rasoio. No, PC, è l'ultima che è rimasta, io... per esclusione. Edgar Allan Poe, allora no, a 3 su 5. Allora sentiamoci prima Edgar Allan Poe. Ce la lasciamo per ultimo, dai. Ok, quindi è la numero 2. Eccoci qua. Quindi Metropolitan Ratto Suite, che ancora con una citazione Edgar Allan Poe. Però non è scritto proprio come scritto. No, perché Edgar Allan Poe era un noto bevitore, no? Sì. Quindi allappava. Allappò. E quindi allappi. E quindi è scritto Edgar Allappò. Sull'inizio hey, Insomma, abbiamo ascoltato PC. PC nasce proprio dal... Non so, c'avete un PC, avete fretta, lo accendete, lui capisce le vostre intenzioni, quindi che andate di fretta, e lui rallenta le prestazioni apposta, con un aggiornamento, con qualcosa che deve prevalere. Sì, insomma. Deve prevalere, e quindi tu te ne vai incazzatissimo, perché dici non sei riuscito a fare quella cosa, perché andavi di fretta e la devi fare la sera. Perché... È fascista il PC. È molto fascista. No, poi il PC vive di vita, però è una sorta di Terminator. Te lo dico io che purtroppo lavoro con i PC. E illude la gente che c'è un problema, quindi ti chiamano pure per falsi problemi, e qui la cosa è veramente fastidiosa. Non dico dove lavoro perché qualcuno potrebbe cercare domani, però la cosa è veramente fastidiosa. Lavori per una parte di Skynet? Sì, stiamo progettando un nuovo sistema di intelligenza artificiale. Ok, questa volta con la faccia di Chuck Norris, però, perché Schwarzenegger basta. Insomma, no, dicevi il pezzo nasce da questa paranoia, da questo disagio che uno c'ha davanti al PC. Quindi non accade però con la pornografia. No, in quel caso funziona benissimo. Effettivamente, i siti porno vanno. No, a parte quello, no, comunque è proprio così, i PC sono fatti per farti perdere tempo, quindi meno li usi è meglio, credo. Quindi anche perché le rubriche ce le avevi su scritte da qualche parte, i conti con l'abaco. Io il PC lo uso come macchina da scrivere in realtà, quindi è solo quello. Come? Come macchina da scrivere. Cioè io più di quello non ci faccio col PC. Cioè tu non salvi un file, stampi direttamente poi spegni. La prima mail che mandai, è vero, la scrissi tutta sull'oggetto. Quindi più di questo credo che la trasmissione può pure finire qui. No, no, che andar via. Veramente, il significato dell'anti-nerd. Sì. No, bene, bene, molto punk. Moltissimo. Le mail sull'oggetto si sono fatti. Hanno riso per 10 anni, ancora adesso. Vabbè, sempre dalla scaletta che ci hanno portato. Facciamo il giro, facciamo un pezzo e poi facciamo il giro. No, mi suggerisce. Guarda, sulla frase dei PC era perfetto chiuderla. Questi sono i Green Day. Mentre arriva PC dei Metropolitan Ratto Suite, il mio computer. insomma, attività live. Sì, ne abbiamo due recenti e confermate. E confermate soprattutto il 2 maggio all'Aquila al May Day, per un evento organizzato da Jam Rock Records, e poi una il 23 sempre di maggio a Reggo a Castel Gandolfo. Poi ce ne sono altre che ci stanno dando conferma in questi giorni, l'estate, giugno e via dicendo. E quindi date un'occhiata su Facebook e sul sito in modo da rimanere aggiornati nel caso. Com'è l'indirizzo del sito? Il sito è www.metropolitanrattosuite.com. Poi c'è il MySpace, che è www.myspace.com/metropolitanrattosuite, tutto attaccato. Poi c'è la fanpage, cliccate tutti mi piace scrivendo Metropolitan Rattosuite sulla ricerca di Facebook, canale YouTube. Tanto non c'è un altro gruppo che si chiama Metropolitan Rattosuite. Ma come mai questo nome? Ci alleeremo se sul finale volevo chiedere forse la domanda. Ma il nome è un po', abbastanza parte mischiato tra l'inglese e l'italiano, l'inglese un po' macronico. Non lo so, soprattutto per la destreggiarsi in diverse situazioni. Potrebbe pure non esserci una risposta. Diciamo la verità, l'abbiamo fatto perché è facile da memorizzare. Sì, è semplice, diretto, Metropolitan Ratto Suite. Suite come dolce, molti lo dicono, suite come una camera, suite. Sì. No, cioè poi come l'animale, il ratto che si destregge e si ambienta in qualsiasi habitat, lo fa suo naturale, noi con la musica proviamo a fare la stessa cosa. Insomma, ci salutiamo su questo, che è il collegamento col sorcio, perché sì, comunque è metropolitanissimo. Pure quanti 5 o'clock viviamo il disagio, ci sentiamo sorci. Allora, grazie a tutti. Grazie a voi di esserci venuti a trovare. È stata una bellissima esperienza. Adesso che ci eravamo riscaldati, però purtroppo ci dobbiamo salutare. Cogliamo l'occasione per salutare Annalisa e la nostra grandissima groupie, che si chiama Fofo, ed è un ragazzotto di 1,85 m, però molto molto fedele. È buonissimo. Sì. Poi salutiamo Alessandra, saluto personalmente Mauro e Matteo, Danilo e Milena. tutti quelli che ci stanno ascoltando. Grazie a tutti. Dai, grazie a voi. Metropolitan Rattosuite. Ciao.